Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria si tratta ancora, o meglio, si attende di capire se arriverà qualche altra indicazione della FIOM. Chiaramente il tema è Pomigliano d'Arco, dopo il no di ieri, il chiarimento degli altri sindacati, UIL e CISL, che hanno detto comunque se andrà un referendum, se va avanti così. La Fiat non è intenzionata a avanzare proposte, ulteriori proposte. Ne parleremo alle 18:07 con il responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Fiat, per capire insomma come mai anche si chieda a Pomigliano non un giro di vita, ma insomma una produttività che non viene richiesta anche ad altre fabbriche. Quali sono le caratteristiche di Pomigliano d'Arco? Ieri abbiamo raccontato anche la storia di una fabbrica molto difficile, ma che comunque nel 2008, dopo un processo durato 3 mesi di completa risanamento anche dei modelli produttivi, è tornata ad avere produzioni accettabili. Non riesce a vendere perché le auto che produce sono anche di fascia molto alta. Comunque questo sarà il tema della seconda ora del programma. In apertura ci occuperemo dei cinesi di Prato. C'era un cinese a Prato, non è tanto un titolo, ma in questo caso c'è un appello molto forte del sindaco di Prato che chiede l'intervento del ministro della giustizia Alfano per il controllo del territorio. C'è un tema che resta sempre sotto traccia, ossia che cosa fare della comunità cinese più importante d'Italia, quantomeno in proporzioni. È una comunità che, pensate solo quanto ha rimesse, cioè quello che viene dato e versato dall'Italia verso la Cina. 1.200.000 euro al giorno vengono inviati da Prato verso la Cina, per un totale di 464 milioni di euro in un giorno. Insomma, lì il problema è, da un lato, garantire la legalità, ci sono infatti circa 20-30.000 cinesi illegali, dall'altro però anche includere i cinesi regolarizzati, visto che le imprese cinesi iscritte nella Camera di Commercio di Prato sono 4.395, praticamente su 50.000 che sono in tutta Italia. Il tema è un tema che vale anche per altre realtà: che cosa fare di comunità che ormai si sono affermate sul territorio, visto che spesso ci occupiamo di Cina. Siamo appena tornati da un viaggio di Focus Economia proprio in Cina, ci occupiamo anche dei cinesi in Italia, in un settore come quello tessile che ha sofferto della concorrenza anche cinese proveniente dalla Cina. Dopodiché la relazione dell'antitrust di oggi, la richiesta di potersi occupare anche delle piccole e medie imprese, la relazione della Covip, quindi fondi pensione, sempre di oggi come temi di cronaca. E partiremo in apertura con l'allarme molto forte lanciato dai presidenti delle regioni. Le regioni lamentano che metà della manovra da 24 miliardi a carico sostanzialmente loro come mancati trasferimenti, e la cosa politicamente anche interessante è che questo allarme viene lanciato non solo dai governatori o presidenti di regione del centro-sinistra, ma anche da quelli di centrodestra. Formigoni in testa. 349-238-6666 per gli sms. Come va la borsa? Va bene anche oggi, più 1,90%, di nuovo bene Unicredito, più 3,5%. ST Microelectronics più 3,5%, Media 7 più 3,3%, Monte dei Paschi più 3,2%, Intesa più 3%, Banco Popolare più 2,80%, come la Popolare di Milano, Bene Telecom più 2,40%, Saipem più 2,2%, Mediobanca più 2,1% e Autogrill più 1,90%. Bene quindi tutti i bancari. Fiat nello specifico invece guadagna l'1,14%, il peggior titolo è Geox, meno 2,40%, poi Pirelli meno 0,50%, euro sopra quota anche 1,23 a 1,23,32, un punto percentuale rialzi in media in Europa e anche negli Stati Uniti. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, come sempre, nelle nostre notizie in breve. Petrolio continua a correre, $75,6 al barile. E sul tema dell'energia oggi è intervenuto il presidente dell'autorità per l'energia, Alessandro Ortis, che ha detto: attenzione, l'attuale andamento del prezzo del petrolio e il cambio dollaro-euro, in assenza di interventi correttivi, non potranno che portare a breve a un aumento dei prezzi anche del gas per i consumatori finali. Serve più concorrenza. Moody's ieri ha tagliato il voto della Grecia, portandolo ieri in serata da A3 a BA1 con prospettive stabili. Praticamente l'ha abbassato di 4 gradini il voto. E Moody's dice: insomma, esaminiamo il pacchetto di misure greche e c'è, a questo punto viene eliminato anche ogni rischio di possibile default e incoraggiamo l'attuazione delle riforme. Molto duro il giudizio di oggi da parte del premier del Lussemburgo, che è anche presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, che ha detto: la decisione di Moody's è irrazionale. E anche il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn, intervenuto al Parlamento europeo, ha detto: Moody's si è mossa in maniera sorprendente e infelice. E poi però Olli Rehn ha detto: attenzione, noi non siamo in grado di valutare i piani della Bulgaria. Abbiamo delle preoccupazioni sulle previsioni di bilancio bulgare e a Bruxelles mancano informazioni sui motivi per cui Sofia ha rivisto il suo bilancio per il 2010. Bene, invece l'asta delle obbligazioni spagnole, molto importante in queste settimane vedere come vanno le aste, se il mercato compra debito di questi paesi e a quanto lo compra. Il Tesoro spagnolo ha collocato sul mercato 5 miliardi di euro in obbligazioni a 12 e 18 mesi. Buona la richiesta, una volta e mezzo l'offerta, questo va bene. E anzi, 3,5 volte superiore all'offerta per i bot spagnoli a 18 mesi. Ha dovuto pagare interessi più alti, però, più alti del 44% rispetto all'ultima asta di maggio. L'interesse medio annuo è infatti del 2,45%, mentre il mese scorso era dell'1,7%, quindi si è alzato parecchio il rendimento che la Spagna deve pagare per trovare sottoscrittori del suo debito. Allora, la manovra italiana. Se la Commissione europea dà via libera, ha promosso la manovra di bilancio italiana per il 2011-2012, la manovra correttiva è irricevibile e non sostenibile, lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine di una, che è anche presidente della Regione Emilia-Romagna, al termine di una conferenza stampa congiunta e straordinaria dei governatori. Sentiamo Vasco Errani, poi sentiremo anche Formigoni. La manovra è insostenibile per le imprese e per le famiglie e sulla base di questo mette a rischio il federalismo. Bisogna, visto che tutti diciamo che vogliamo il federalismo, si corregga la manovra e ci si metta nelle condizioni, ciascuno facendo la propria parte e anche facendosi carico della riduzione della spesa pubblica, che ci siano le condizioni per fare una cosa utile per il Paese. E come dicevo, l'elemento anche politico è l'atteggiamento bipartisan dei governatori delle regioni, perché poco fa la nostra Roberta Pellegatta ha raggiunto anche Roberto Formigoni, presidente della regione Lombardia, il quale ha dato un giudizio analogo, ha detto: insomma, questa manovra mette seriamente a rischio l'attuazione del federalismo. Questa manovra è criticata da noi regioni perché chiede sacrifici soltanto alle regioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, mentre qui oltre il 50% della manovra è a carico delle regioni, poi c'è un carico pesante per le province e per i comuni, gli unici che ne escono indenni sono i ministeri, quando invece sono proprio i ministeri, cioè il governo nazionale, ad essere responsabili dell'aumento del debito in questi anni. Ecco perché ho usato l'espressione padre Samannato, perché il governo che deve ripartire i sacrifici tra tutti i figli, in realtà è il primo a dare il cattivo esempio. Ha aumentato il debito nel corso di questi anni e ancora non vuol farsi carico della sua parte d'Italia. Le regioni sono pronte a fare la loro parte in proporzioni con tutti gli altri. La situazione è complicata, la manovra va fatta, il totale lo deve giustamente stabilire il governo. Noi siamo pronti a sopportare tagli identici in proporzione rispetto agli altri settori di governo. Perché questa manovra mette a rischio il federalismo fiscale, come lei ha detto? Perché la manovra viene a togliere quei capitoli di finanziamento statale alle regioni sulle quali dovrebbe essere innestato il federalismo fiscale. Quindi se si toglie la base del trasferimento fiscale, il federalismo fiscale non sta più in piedi. Ma noi invece il federalismo fiscale lo vogliamo, ci siamo battuti per averlo. Il federalismo fiscale si deve dunque fare, ma dunque la manovra va corretta per poter fare il federalismo fiscale. Molto duro quindi anche il giudizio di Roberto Formigoni, così come il presidente del governatore della regione Piemonte, Roberto Cotta, ha detto insomma la mia posizione è che bisogna trovare il modo di evitare di penalizzare le regioni virtuose. Devo dire che Formigoni ha ragione, su 24 miliardi di manovra 10 miliardi sono a carico delle regioni, poi c'è un'altra parte consistente a carico del pubblico impiego e un 5-7 miliardi di recupero dell'evasione, ma sono stimati e lì sappiamo che le stime non sempre poi si realizzano quando si tratta di combattere in questo paese l'evasione fiscale. E poi San Marino dichiara guerra all'Italia. No, sto scherzando, non è esattamente così, però oggi vari ministri della Repubblica del Titano, come si chiama in gergo, sono andati in conferenza stampa a Roma per dire insomma noi vorremmo trattare col governo italiano, il tema è San Marino è un paradiso fiscale, ci sono tante società di comodo e il governo, a nostro avviso anche con una certa ragione, teme che lì si nasconda molta evasione e elusione fiscale e per non pagare tasse in Italia, di società che in realtà sono a tutti gli effetti italiane. Insomma, replicano i ministri di San Marino, attenzione, il governo italiano non ci parla, noi siamo disponibili a collaborare con le richieste, ma non riusciamo a essere ricevuti dal governo italiano, c'è uno stallo tra le relazioni. Tra l'altro fanno notare da San Marino che lo scudo fiscale ha fatto uscire dalle casse della Repubblica di San Marino 5 miliardi di euro. Ci chiediamo come ci fossero entrati, per carità. Vabbè, sentiamo Paolo Pasquale Valentini, che è il segretario di Stato per le finanze di San Marino, il Tremonti di San Marino. Con l'Italia abbiamo rinegoziato un discorso di cooperazione economica, perché i due paesi hanno bisogno assolutamente di collaborare, e a fronte di questo c'erano due impegni, uno sul settore finanziario, quindi di rivedere la convenzione del 91, e l'altro di avere con l'Italia un accordo contro le doppie imposizioni, rivedendo un accordo già fatto e già parafato nel 2002, mai ratificato, e adeguandolo agli standard OCSE 2005. Nel giugno 2009 eravamo arrivati a questo punto, eravamo praticamente alla conclusione di questo percorso che doveva vedere l'entrata in vigore contemporanea di tutti e tre gli accordi. Problematiche evidentemente, in parte interne italiane, in parte di modifica del quadro internazionale, hanno portato l'Italia a richiedere ulteriori aggiunte a questi problemi, in modo particolare la richiesta dello scambio automatico di informazioni, però a quel punto è come se la trattativa si fosse fermata, e nel frattempo sono andate avanti invece come dire, atteggiamenti come quello del decreto incentivi o della manovra che attualmente l'Italia sta facendo, che hanno creato una barriera nei confronti dell'attività economica sanmarinese. Quindi noi siamo da un lato impediti di concludere un percorso di trasparenza che volevamo fare, dall'altra però abbiamo tutte le ripercussioni negative di una scelta unilaterale dalla parte italiana. Staremo a vedere. Questo era comunque il segretario di Stato per le Finanze di San Marino, Pasquale Valentini, al microfono del nostro Nicola Accardo. Ancora due notizie in breve. Prorogata la moratoria sui mutui delle piccole e medie imprese, importante questo, fino al 31 gennaio 2011, soddisfazione da parte del presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia, viene estesa di 7 mesi. Quindi con il termine per la presentazione delle domande che viene rinviato al 31 gennaio 2011, che è la data ultima per cui si possono portare le domande per avere la proroga sui mutui per le piccole e medie imprese. Sempre in tema di imprese, il dato di aprile nel commercio con l'estero è un buon dato, le nostre esportazioni sono cresciute del 15%, è il livello più alto dal 2008, rispetto a marzo più 1,1, ma rispetto, diciamo, ad aprile 2009 più 15,2%. Resta una bilancia commerciale negativa per l'Italia di 830 milioni, ma insomma bene sono andate le nostre esportazioni in Germania, più 21%, Francia più 15%, Spagna più 24%, Gran Bretagna più 20%, e bene anche in America più 17%, Cina più 18%, India più 10%, come in Giappone. Che cosa ha tirato di più? Tessile e abbigliamento più 10%, mezzi di trasporto più 25%, elettronica più 15%, l'alimentare più 16%, la chimica più 34%. E restiamo in tema di imprese italiane, di distretti, per occuparci, come ho annunciato in apertura, di un distretto classico della nostra economia, quello del tessile di Prato, un distretto in difficoltà da anni, perché il tessile a livello nazionale è in difficoltà, ha subito moltissimo la concorrenza cinese, la concorrenza anche di produttori europei che fanno fare le cose fuori dall'Europa, e poi che ha una sua specificità perché è il distretto in cui è più alta in proporzione la concentrazione di imprese cinesi. Il tessile, abbigliamento e maglieria, Prato vuol dire 30.000 addetti, 7.600 imprese, 3 miliardi e 900 milioni di euro di fatturato, con un calo pesante l'anno scorso del 13%, e quasi 2 miliardi di export. Ma l'81,8, cioè l'82% delle imprese di confezioni nel distretto di Prato sono cinesi. Ci sono 4.395 imprese cinesi iscritte alla Camera di Commercio di Prato, con un aumento nel 2009 del 10% rispetto al 2008. Nel caso specifico di maglieria e abbigliamento sono oltre 3.000 le aziende cinesi, 2 miliardi di euro di fatturato, la metà si stima sommersi, 1 milione di capi di abbigliamento prodotti al giorno, per una popolazione cinese a Prato che è, diciamo, di 20.000 persone regolari e di 30.000 irregolari, per una provincia che ha, insomma, 180.000 abitanti della la città, scusatemi, non la provincia, per cui la cifra inizia a essere di quasi un terzo, siamo quasi a un quarto. Con le rimesse ogni giorno partono da Prato verso la Cina 1.200.000 euro di rimesse della comunità cinese, per un totale di 464 milioni di euro ogni giorno, ogni anno. Il 7% del PIL pratese. E ce ne occupiamo perché è arrivato un appello dal sindaco di Prato, che si chiama Roberto Cenni, è del PDL, ha chiesto aiuto al ministro Alfano per contenere, per tenere sotto controllo l'ordine pubblico, la criminalità anche generata dai cinesi. Domenica notte un imprenditore cinese è stato ucciso con un colpo di pistola in faccia, un connazionale è rimasto gravemente ferito, un ragazzo cinese è stato coltellato in una rissa all'uscita di una discoteca. Insomma, sullo sfondo c'è una difficoltà anche nel, diciamo, nell'interagire, nel relazionarsi con questa comunità importantissima e ormai quasi storica. Ringrazio quindi il sindaco di Prato, Roberto Cenni, per averci raggiunto in collegamento. Buonasera, sindaco. Buonasera. E grazie anche al presidente della Confindustria di Prato, Riccardo Marini, in collegamento anche lui. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. Allora, sindaco Cenni, insomma, chiedere l'aiuto del ministro Alfano per che cosa? Perché, insomma, la criminalità c'è, è spiacevole, non è l'unica zona in cui c'è. Dov'è che volete arrivare? No, quello che fa paura è gli aspetti che via via sta prendendo, perché un fatto è la generalizzata, come dire, illegalità che contraddistingue l'attività cinese, sia per quanto riguarda il discorso manifatturiero, ma anche per quanto riguarda il discorso delle attività commerciali che piano piano si sta espandendo. E soprattutto sono, come dire, i diversi aspetti che fanno pensare non, come dire, a un fenomeno spontaneo, ma a un qualcosa di organizzato. Se vi mette insieme i grandi flussi, che quelli sono dati ufficiali e passano tramite i money transfer di 464 milioni l'anno, se a questo ci aggiunge le grandi disponibilità di contanti che circolano, quanto viene sequestrato anche all'aeroporto stesso di Firenze, nascosto dentro cioccolatini piuttosto che nei regali, e i diversi eventi che via via si sono succeduti, con il tragico evento dell'altra sera, ma poi c'è stato l'assalto ai bar, ci sono state rese di conto, scazzottate, intromissioni in casa private. Per cui c'è una serie di fattori che sono visti con molta preoccupazione dalla comunità e dalla collettività pratese, perché possono, come dire, presupporre, come dire, un insieme di criminalità organizzata che in qualche maniera tira i fili di tutti questi flussi di merce, di tutto questo denaro che circola. Ed è chiaro, evidente, che di fronte a questa problematica il semplice uso dei sistemi ordinari che in qualche maniera si stanno impegnando al massimo nel nostro territorio, a partire dalla prefettura, alla questura, alla guardia di finanza, ai carabinieri, però non sono assolutamente sufficienti se il fenomeno è di caratteristiche più profonde e più pericolose di quanto fino a poco tempo fa poteva essere intuito, ma che oggi ci sono gli evidenti segni. Mi scusi, sindaco, ma che cosa chiedete? L'esercito a Prato? Ma l'esercito c'è già, nel senso. Sì, certo, c'è anche a Milano. Una posizione del genere. Molto probabilmente ci vogliono degli strumenti in grado forse di indagare, ma soprattutto una volta percepito che questo sia un fenomeno gestito da poche menti organizzate criminali, possa esserci gli adeguati provvedimenti. Se si tratta di avere a che fare con qualcosa che assomiglia molto alla camorra o alla mafia, magari di nazionalità diversa, con gli occhi a mandorla, o con dei collegamenti in questo senso, perché se c'è anche questo sospetto, certamente bisognerà che di fronte a questo ci siano l'uso di strumenti adeguati per questo tipo di indagini. Sindaco, una domanda, poi arrivo anche al Presidente Marini, però qui parliamo di mafie e, per carità, questo è un paese che ne sa qualcosa, diciamo, abbiamo esportato tra le altre cose anche le mafie in mezzo mondo, però non basterebbe mandare più finanzieri, cioè, qui il problema secondo me è duplice, cioè, c'è un problema di criminalità, di controllo del territorio e va bene, però c'è da sempre, mi passi il tema, un po' di insofferenza, per essere buoni, nella comunità, della comunità pratese, per questa presenza cinese che non è tanto, non si sono messi a aprire bar o negozi, diciamo, di parrucchieria, sono andati a prendere quote del vostro mercato nel tessile, abbigliamento e spesso, come abbiamo ricordato, producendo anche in nero, si stima che siano quasi. Allora lì non servirebbero più controlli della Guardia di Finanza, cioè com'è possibile avere i magazzini a Prato quando tutti sanno che quella è una zona tra Prato e San Donnino, insomma, in cui ci sono? Facessero i controlli a tappeto, forse meglio quello che le camionette per strada, no? Ma guardi, in questo senso tutte le forze dell'ordine stanno facendo il massimo. Lei pensi, solamente nei primi 5 mesi, neanche finiti, dell'anno, su 152 controlli sono stati fatti 152 sequestri. Questo gli dà il senso di quant'è l'illegalità. Ma non sono un po' pochi 152 controlli su 4.000 imprese? Consideri che nel 2008 ce n'era stati 158, e nel 2009 ce n'era stati 239, e che oggi i primi 5 mesi sono 152, e per cui si prevede di arrivare intorno a 400-450, il che indubbiamente è sempre poco, ma comunque se i controlli avvengono per un discorso a livello manifatturiero, certamente tutto quello che è altro diventa impossibile gestirlo. Se un finanziere trova 150.000 euro dentro un cassetto e l'altro ha la possibilità di fare la fattura nel giro di 2 o 3 giorni e questi non possano essere sequestrati o rimangano fermi solamente 2 giorni a presentazione del documento, questo non è uno strumento sufficiente per risolvere la questione. Se qui si tratta di un'organizzazione diversa in cui le giustificazioni dell'attività commerciale, dell'attività manifatturiera è semplicemente per nascondere qualche cosa di più pericoloso e di più, come dire, preoccupante, è evidente ci vogliono degli strumenti a segni diversi, che anziché i verbali della finanza trasmessi all'ufficio delle entrate e poi passa tutto quel tempo prima di arrivare in fondo e alla fine l'azienda a cui è stata controllata è bella e chiusa e riaperta da un'altra parte a un altro nome, certamente non si tratta di strumenti che possano rispondere a lo scoraggiamento di certe attività. Ho capito. Per questo c'è bisogno di qualcosa di diverso per poterlo affrontare se i termini sono così preoccupanti. Mi dice, per una battuta che poi devo passare anche al Presidente Marini, che cosa è diverso? Cioè, volete più polizia? Che se ne occupi la DIA di Firenze o di Prato? Mi dica? No, su questo questo problema io credo le questioni di strumenti di indagine devono essere quegli strumenti sofisticati così capaci di seguire il denaro, di vedere quello che fa e che cosa da questo è generato. Allora, Presidente Marini, mi faccia essere provocatorio, tanto lo sono già stato quando sono venuto da voi e ho fatto anche arrabbiare alcuni dei suoi associati. Mettiamola così, da un lato c'è la mano destra che deve essere, insomma, quella del rigore, dell'ordine, della fermezza, ci mancherebbe, è inaccettabile avere i cinesi negli scantinati, i cinesi che non muoiono mai, non ci sono i funerali, i passaporti che vengono dati, insomma una comunità che è di 20.000 irregolari e di 30.000 irregolari. Però la mano sinistra deve cercare anche di includere la comunità regolare, perché a mio avviso sennò non se ne esce, anzi utilizzare i regolari, quelli iscritti, quelli che sono visibili, quelli che vogliono integrarsi come antidoto verso gli illegali e gli irregolari. Vorrei sapere se onestamente su questo a Prato non è stato fatto troppo poco, e cioè questa avversione perché i cinesi vi hanno rubato il lavoro, hanno rubato le quote di mercato, producono a costi più bassi, fa sì che qualunque scusa sia buona pur di dire no, basta, occorre sempre il bastone e mai, tra virgolette, la carota. Presidente Marini, che si può fare per includere la parte sana che funga anche da antidoto verso la parte non sana della comunità cinese? Ma prima di tutto buonasera Baresoni, e le dico anche una cosa, tanto noi stiamo cercando di fare qualcosa abbiamo fatto, come ben sa, visto che è stato recentemente da noi, abbiamo un associato in Confindustria. E fra l'altro la Confindustria non è che sia pregiudizievole nei confronti di etnie diverse per quanto riguarda gli imprenditori, ma si parla di buone imprese e di cattive imprese, per cui insomma, benissimo, l'apertura da parte nostra c'è, la carota sinceramente davanti al nostro bastone c'è anche questa carota. Il fatto è che la carota va usata solamente con certi regolamenti, si parla di legalità e rispetto delle regole, al di sotto di questi due punti cardine, punti fermi, si possono declinare qualsiasi tipo di percorsi per poter arrivare ad avere all'interno delle nostre associazioni degli imprenditori cinesi. Io ho già parlato con diversi di loro, però ancora non siamo arrivati ad una formalizzazione per quanto riguarda il percorso di legalizzazione che loro dovrebbero fare per poter poi essere associati alle nostre imprese. Gli abbiamo detto, noi vogliamo tenere presente, gli diamo il servizio della tenuta dei libri paga, diamo il servizio per il pagamento dei contributi dei lavoratori, in modo da sapere, diciamo, i lavoratori, anche se sono cinesi, devono essere comunque regolarmente iscritti alle varie categorie e essere pagati quanto sono pagati gli altri lavoratori sul territorio nazionale. Le abbiamo detto, messo a disposizione dei corsi di impresa per quanto riguarda la 626, per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda altri tipi di corsi che sono necessari all'interno delle nostre imprese e così come all'interno delle loro. Abbiamo un sito in cinese per cui possono accedere anche in maniera, diciamo, più facile per chi conoscono sicuramente molto meglio la loro lingua che non la nostra. Per cui noi stiamo cercando di fare un sacco di sforzi in questa direzione perché credo sia l'unica strada possibile per trovare una integrazione quantomeno economica che poi possa essere, come giustamente diceva lei prima, anche propedeutica per un miglioramento delle condizioni di vita, ecco, sociale. Vorrei chiedere la stessa cosa anche al sindaco, però Presidente Marini, mi dica una cosa, la risposta com'è stata? Perché è vero che voi avete un rappresentante della comunità cinese dentro la Confindustria ed è sicuramente un elemento importante e prima o poi ne parleremo magari anche con il presidente della piccola industria Confindustria Boccia sull'iniziativa di includere anche tutta quella che è il mondo della piccola impresa di origine extracomunitaria, perché insomma quando è sana, quando è corretta, quando rispetta le regole, ben venga. Però la risposta della comunità com'è stata? Perché noi non tifiamo per nessuno, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, tifiamo per la legalità, punto. Ci stanno o non ci stanno i cinesi? Ma guarda, la risposta a livello di curiosità c'è stata, poi a livello di percorsi intrapresi ancora non c'è stato niente di particolarmente concreto. Però io sono convinto, siccome da parte loro c'è la volontà di poter di venire insieme a noi, di far parte insieme a noi, di lavorare sui nostri tavoli, credo che piano piano si possa arrivarci. Bisogna comunque che questo sia successivo ai controlli, perché se non ci sono i controlli, chiaramente l'interesse da parte di queste seconde generazioni direi di cinesi che sono, di imprese che sono qui nel nostro territorio e che qui hanno i loro interessi, i loro affetti e non hanno nessuna intenzione di tornare alla madre patria, la loro intenzione è quella di unirsi a noi, però per ora si vogliono purtroppo unire con le loro regole e noi abbiamo delle regole che comunque ci siamo dati in tanti anni di indirizzo e di miglioramento delle nostre condizioni di lavoro, e non vogliamo certo che queste regole siano pregiudicate perché si debba fare delle eccezioni per quanto riguarda le no, no, ci mancherebbe rinunciare a 100 anni di diritti del lavoro per far contenta la comunità cinese, ma stiamo scherzando, io parlavo proprio di chi vuole stare e giocare, visto che siamo in periodo di mondiali, chi vuole giocare con le regole che tutti condividiamo. Sindaco, prego. Bisogna smetterla di vedere due film. Sono due film. Noi abbiamo qui davanti a noi due film, specialmente nei macrolotti industriali. Dalle 6 la mattina alle 6 la sera c'è un film per i bambini. Dalle 6 la sera alle 6 la mattina c'è un film per gli adulti. Capito? Finché queste cose non saranno in qualche modo, non si troverà la formula per poter evitare e sistemare, da parte nostra sicuramente porte aperte per chi viene qui e ha intenzione di fare un percorso serio di legalizzazione, potrà benissimo far parte delle nostre associazioni. Un domani così ci potrà essere anche il presidente dell'Unione Industriale di Prato cinese, non so. Adesso. Non vedo perché. Va bene. Allora, Mar In I, il nuovo presidente dell'Unione Industriale Cinese. Allora, sindaco Cenni, qua a Milano, quando c'è stato un caso di ordine pubblico con la comunità cinese di via Sarpi, è successo di tutto, si è mosso anche il console, le proteste, perché è mancato forse la capacità di trovare degli interlocutori della comunità. Domanda, così come hanno fatto gli industriali, l'ipotesi di avere un assessore, un vice assessore cinese che dialoghi, che abbia come incarico proprio quello del dialogo con la comunità, quella che vuole essere più trasparente, più legale? Ma a parte, bisogna prendere atto che per ora di integrazione ce n'è stato un testimone all'Unione Industriale. Io, per quanto riguarda le relazioni che ho dal tavolo della sicurezza, su 152 aziende controllate c'è 152 sequestri. Questo, bisogna partire da questo dato, se no uno crede di costruire un castello ma lo costruisce su qualcosa che la realtà oggi è completamente diversa. Io, quello che in un certo senso fa rabbia in questo tipo di possibilità è che tutti i dati ci danno, per come dire, possibile un enorme numero di consumatori di prodotto medio che può essere in qualche maniera costituito da prodotti innovativi con contenuti moda, di tendenza del distretto pratese, con la capacità e la flessibilità della costruzione, della manifattura cinese, che farebbe di Prato il centro europeo per la moda di questo genere, che certamente non a livelli di prodotto che stanno facendo, perché in pratica una fotocopia di quello che viene fatto in Cina è una porta aperta del prodotto cinese, perché non solo viene prodotto ma viene importato anche altri prodotti. Per cui ci potrebbe essere un'evoluzione della comunità in relazione ai rapporti anche con le produzioni del distretto. E in questa consapevolezza, nel voler per loro rimanere in questo ambito, che può esistere solo se esiste tutta quell'irregolarità, manodopera a livello di schiavi e non pagamento di tasse, che quel prodotto a quelle condizioni, a quel prezzo, per quella distribuzione a cui viene venduto, ha una ragione solo se non paga tutte queste cose. Ma l'idea di avere un consigliere, un assessore dedicato alla comunità cinese, visto l'importanza che ha, quasi uno su quattro è cinese ormai da voi, per lo meno regolare. In questo senso noi abbiamo vissuto anche un momento, come dire, di tensione nei confronti del consolato, perché oggettivamente diventa impossibile avere un rapporto se non che ti garantisca come dire, l'ufficialità di questo rapporto. Qui oggettivamente non sappiamo. Non avete interlocutore, cioè, no, questa è la salvo cosa. Salvo il nostro interlocutore ufficiale, è il console. E ora, fortunatamente, perché il ministro Frattini, insieme all'ambasciatore Iannucci, ha responsabilizzato l'ambasciatore cinese vecchio e lo sta facendo con quello nuovo, perché sono gli unici interlocutori per i quali in un certo senso sono garantiti. Allora, tutto quello che sta dietro poi, c'è la preoccupazione, non sai mai con chi parlare. Torneremo sul tema, perché si gioca tutto, anche il futuro del distretto di Prato, il rapporto con la comunità cinese, la lotta all'illegalità e un certo tentativo di inclusione. Grazie al presidente della Confindustria di Prato Riccardo Marini e al sindaco di Prato Roberto Cenni. Partiamo dalla borsa adesso. Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Devo dire, oggi non ci sono state notizie devastanti né esaltanti, però bene le borse, più 2%, bene tutti i bancari, dopo che soprattutto Unicredito ieri era assicurato sull'impatto di Basilea 3. Comunque racconterei i dati dei bancari, ma senza troppi commenti. Unicredito più 4%, Montepaschi più 3,25%, Intesa San Paolo più 3,12%, Popolare di Milano più 2,6% come Banco Popolare, Mediobanca più 2,1%. Bene, ST Microelectronics, che è il terzo miglior titolo, più 3,22%. ST Microelectronics. Sì, ST è stata spinta diciamo da un buon andamento di tutto il settore dei tecnologici, che in particolare ha guardato alle indiscrezioni sul fatto che Infineon, il gruppo tedesco, possa mettere in vendita la propria divisione dedicata ai chip per telefoni cellulari, e già ci sarebbero dei contatti con Intel. Questa prospettiva di un'operazione appunto di vendita sul mercato, comunque di cui che non si vedono spesso ultimamente, ha dato spinta all'intero settore dei tecnologici. ST ha fatto più 3%, è stata una delle migliori del FTSE MIB, così come il caso del giorno, un'altra notizia di acquisizioni e di operazioni straordinarie ha riguardato il settore dei media, quella di BSkyB, ed è stato il settore dei media il migliore sulle piazze finanziarie europee. Eh sì, perché se abbiamo ben capito, Rupert Murdoch, quindi con la News Corp, si compra BSkyB. Sì, News Corp già detiene il 61% di BSkyB, ha lanciato 40. Un'offerta totalitaria a 700 pence per azione. Il titolo è schizzato in borsa, ma diciamo così, la notizia nella notizia è che il CDA di BSkyB, consiglieri indipendenti in particolare, hanno sottolineato come questa offerta sia insufficiente, sia stata giudicata insufficiente dal CDA, che ha detto la valorizzazione giusta dell'azienda non può essere meno di 800 pence. Il titolo ha fatto più 17% a Londra, il titolo BSkyB, gli è andato dietro Mediaset in Italia, ma Sky Deutschland in Germania. Sì, ecco, Sky Deutschland, bene, però Mediaset ha fatto più 3% e torna sopra i 5 euro per azione, 5,1 euro. Negativa Geox, meno 2,5, mentre Pirelli ci sta, dopo la corsa di questi giorni, un calo, un realizzo dello 0,4. Geox continua delle sedute difficili sotto i 4 euro per azione. Sì, Geox continua a tenersi su livelli che sono molto bassi, nelle ultime settimane ha toccato anche i minimi storici, continua a stare sotto i 4 euro. E bisogna dire che chi studia un po' la società, l'andamento della società, e vede le prospettive delle vendite per Geox non è troppo ottimista, non vede una ripresa delle vendite nella seconda parte dell'anno con un impatto quindi sui profitti consistente, vede una ripresa solo a partire dalla seconda metà del 2011, e questo continua a penalizzare il titolo nelle ultime settimane. Chiudiamo la borsa dando anche i migliori e peggiori. Ross, il migliore, più 17%, Mondo Home Entertainment più 11%, Stefanelli più 8%, Sabaf più 6,7%, Safilo più 6%. I peggiori: Risha Ginori meno 13%, Seat Pagine Gialle sulle risparmio meno 8%, Self Therapeutics meno 5,7%, ma molto era cresciuta ieri. Tra gli altri titoli ricordo che bene si sono mossi, oltre ai bancari, oltre a ST Microelectronics e Mediaset, anche Telecom Italia più 2,4%, Saipem più 2,2%, Mediobanca più 2,1%, Autogrill più 2%, Eni più 1,7%. Ma ci colleghiamo subito con Vincenzo Miglietta, che sta seguendo l'incontro tra Fiat e i sindacati, perché ci sono novità proprio su Pomigliano d'Arco, che è il prossimo e anche ultimo tema di questa puntata. Vincenzo, buonasera. Sì, buonasera, importanti novità, l'azienda ha siglato l'accordo con i sindacati, resta fuori come previsto la FIOM, quindi si va avanti con il testo siglato lo scorso venerdì. In più possiamo dire che il 22 di giugno ci sarà il referendum tra i lavoratori per vedere se gli operai accetteranno o meno l'intesa siglata da Wilm, FIM e FISMIC ed UGL. Altro fatto importante sui punti contestati relativi al diritto di sciopero e all'assenteismo e ad eventuali sanzioni verso sindacati ed operai, viene istituita una commissione paritetica che dovrà lavorare proprio su questi punti, quindi possiamo dire che Pomigliano d'Arco ha al momento un futuro, la panda verrà trasferita dalla Polonia allo stabilimento campano.